partire. Allora, siamo con Daniele Francesconi, edizione numero 25 del Festival della Filosofia, Modena, Carpi, Sassuolo. Sarà dal 19, 20, 21 settembre e quindi non ci resta che iniziare il nostro appuntamento, come ogni inizio stagione, per darne anticipazione. Intanto buongiorno Daniele e bentornato. Buongiorno e grazie per l'invito. Parola chiave per questa edizione è un po' particolare. Intanto è la 25esima edizione, vogliamo sottolineare anche questo e ne parleremo. Partiamo da questo cardine di inizio, ci può dire qualcosa di più? Sì, la parola è un po' particolare, per certi versi un po' difficile, perché ci occuperemo del tema della paideia, cioè il nome greco con cui si indicava il percorso di educazione, di formazione delle persone, termine che ricomprende dentro di sé tanti aspetti di cui ci occuperemo, la questione della scuola certamente, ma non solo, cioè non solo la scuola intesa come istituzione, anche appunto tutti i contesti in cui si realizza una crescita della persona, la famiglia, la società, la trasmissione tra le generazioni. E questa è per molti versi una delle questioni più urgenti che abbiamo di fronte, perché riguarda sia certe trasformazioni nelle relazioni sociali, ma riguarda anche le conseguenze della grande rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo. E poi soprattutto ve n'è tanta necessità oltre che urgenza, perché è un aspetto fondamentale questo che viene sottolineato per questa edizione. Numero 25, un quarto di secolo quindi. Sì, un quarto di secolo, una lunga storia, siamo un evento, ma in un certo senso ormai siamo anche un'istituzione, e per alcuni versi non volevamo fare celebrazioni e tantomeno autocelebrazioni, quindi abbiamo scelto un tema che ci consentisse, in un'occasione di una ricorrenza così importante, di fare un bilancio, o meglio ancora un lavoro di autoriflessione sul ruolo della cultura pubblica, delle manifestazioni culturali, che sono anche loro dei progetti di educazione pubblica. E quindi il tema paideia è per noi un modo per presentare riflessioni sulla relazione tra media e educazione permanente. Per imparare, uno dei modi migliori è l'insegnare. Aver modo di insegnare ci dà la possibilità ogni volta di imparare qualcosa. Probabilmente all'interno di questa parola c'è anche una sfaccettatura legata a questo aspetto. Sì, sì, moltissimo. Cioè, una delle grandi questioni odierne è proprio questa, la relazione tra chi insegna e chi impara, la questione dei maestri e delle maestre. Si sente molto una lamentazione che siano scomparsi i maestri, e questo è vero. C'è un tema, diciamo, più pratico, cioè la perdita di prestigio, di status, la condizione veramente desolante in cui vengono lasciati i docenti della scuola. Noi vogliamo andare a guardare questa relazione nelle sue tante possibili manifestazioni, che sono complesse, perché il rapporto tra insegnanti e allievi non è mai neutro. L'ideale è quello che diceva lei, cioè uno scambio continuo, una collaborazione, cosa che oggi è possibile perché siamo in un'epoca in cui le nuove generazioni possono insegnare molto a quelle precedenti, per esempio a impadronirsi della tecnologia, e viceversa tra insegnanti e allievi si possono però produrre anche dei cortocircuiti. Gli insegnanti a volte possono essere troppo oppressivi, gli allievi a volte non hanno la forza di essere autonomi. Questo è il vero segreto, no, di questa relazione, che è apparentemente un paradosso, perché bisogna insegnare la libertà, che però non può essere concessa, deve essere conquistata. Ed è un aspetto fondamentale questo, parte, sì, direi proprio che tante sono le argomentazioni, le accezioni di questa parola cardine per la 25esima edizione. E per quanto riguarda qualche ospite e come si comincia? Che noi abbiamo, come sempre, lavorato anche a un rinnovamento, convocando più voci possibili, anche ospiti internazionali che non erano mai venuti al festival, voci nuove, insieme ai nostri abituali, diciamo Beniamini, ai protagonisti abituali della discussione filosofica, da Cacciari a Recalcati, Michela Marzano, Roberto Esposito. Però alcune cose sono particolarmente, credo, significative, proprio perché non così abituali da ascoltare in Italia. Adesso, per esempio, a un filosofo spagnolo, Daniel Innerariti, che ci conduce in un tema affascinante che poi risuonerà anche in altre lezioni: l'accelerazione sociale, tecnologica, culturale del nostro mondo fa sì che tutti noi siamo chiamati a insegnare ciò che ancora non sappiamo del tutto. Questo è il paradosso. Vero. Paradosso, no? Sì. Eppure non possiamo scappare da questa responsabilità. È proprio la classica situazione in cui, come si diceva prima, si insegna e si impara allo stesso tempo. È quasi un unico processo. Anche in questo aspetto la corsa della tecnologia, della digitalizzazione, va più forte addirittura di chi poi la deve diffondere. La difficoltà è ulteriore. Sono veramente immense le analisi che si possono fare su questi concetti. Per averne dato anticipazione, ne sono veramente grato. Come ogni anno a settembre iniziamo anche con questo motivo di incontro, lo inseriamo nei nostri magazine al Breakfast Club. Quindi io ringrazio Daniele Francesconi per il Festival di Filosofia 2025, 25esima edizione. Ci risentiamo magari prima del 2026, però seguiremo costantemente questi percorsi. Grazie di cuore, buona giornata e buon festival. Molte grazie e buon proseguimento, a presto, arrivederci.